Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Più che del Catania o della Regina o della Roma, questa sembra essere la giornata di Roberto Mancini, per due buone ragioni. La prima è che gli è stata assegnata la panchina d'oro a Coverciano dai suoi colleghi allenatori. È un riconoscimento che da anni viene attribuito al più bravo degli allenatori italiani, secondo il giudizio dei suoi stessi colleghi, cioè ciascun allenatore vota. Mancini succede a Prandelli, la panchina d'argento è stata assegnata a Iachini, ex tecnico del Chievo, a proposito di beffe, no? Visto che Mancini ha vinto questa panchina ovviamente come ex allenatore dell'Inter, Iachini come ex allenatore del Chievo. Per la prima divisione la panchina d'oro è andata all'ex tecnico del Sassuolo Allegri, che ora allena il Cagliari, e la panchina d'argento sempre per quella categoria ad Alessandro Pane della Reggiana. Questa è la prima ragione per cui potrebbe essere la giornata di Mancini. La seconda, che è di gran lunga più importante, è che Mancini è uno dei tre candidati ufficialmente alla panchina del Real Madrid. Gli altri due sono uno spagnolo di non grande carriera, uno che si chiama invece Mitchell e che è stato un grande giocatore del Real degli anni 80 primissimi. Il primo si chiama Víctor Valdés, il tecnico tra l'altro che sostituì Mourinho al Porto, che però è reduce da due esperienze molto negative. L'altro è, lo leggo su 24 minuti, l'edizione pomeridiana del Sole 24 Ore, Free Press, in distribuzione gratuita a Roma e a Milano. L'altro è Mitchell, ex bandiera per l'appunto del Real Madrid, che attualmente allena il Castiglia, cioè la succursale del Real, la squadra del Real Madrid che milita in terza divisione. Mitchell sembra il favorito, ma prende corpo la candidatura di Roberto Mancini, anche perché, ed è questa la ricostruzione di 24 minuti particolarmente intrigante, anche perché il Real avrebbe chiesto all'Inter Crespo per supplire all'assenza da qui a fine stagione di Van Nistelrooy, a cui è saltato il ginocchio. L'Inter avrebbe chiesto a Real Madrid 10 milioni di euro per Crespo, che è una cifra spropositata, visto soprattutto che Crespo si svincola a giugno, ma potrebbe entrare in ballo il contratto di Mancini, perché se Real facesse la grazia all'Inter di liberare il contratto di Mancini di 6 milioni a stagione fino al 2012, beh, insomma, diciamo che probabilmente il prezzo di Crespo potrebbe scendere fino, dico io, ad azzerarsi o quasi. Questo è il così lo sviluppo, le novità principali di giornata. Poi ce ne sono anche riguardo alla penosa vicenda Variale Zenga, in ordine strettamente alfabetico, ma mi pare che tanto valga cominciare con uno dei temi di giornata, che potrebbe essere, anziché la normalizzazione, cioè la fine temporanea, ma insomma con qualche proiezione negativa per l'appunto per il futuro, dell'avventura delle seconde forze. Hanno perso tutte, ha cominciato il Genoa giovedì, travolto dalla Juventus a Torino nell'anticipo curioso del giovedì, e poi ieri uno dopo l'altra sono cadute tutte, in maniera più fragorosa direi l'Udinese in casa con la Regina, poi è toccato anche alla Fiorentina, è toccato al Napoli in maniera tumultuosa, è toccato alla Lazio in serata nel derby contro la Roma. Allora, in attesa dei vostri interventi, come sempre all'800 24 00 24, e ce ne sono già di scritti arrivati in nottata e in mattinata, interessanti, che poi spero di trovare il tempo di leggere, sentiamo i commenti per l'appunto degli allenatori di queste squadre temporaneamente perlomeno ridimensionate, cominciando proprio da Delio Rossi. Il derby è una partita particolare, c'era molta tensione, me ne sono accorto pure io, infatti anche alla fine del primo tempo ho detto: ragazzi, troppa tensione, troppa paura, un po' più di scioltezza. Peccato, perché la partita era stata interpretata bene, un episodio poi la sblocca quando c'è questa situazione. Sicuramente c'è stata una disattenzione, anche perché sappiamo che la Roma fa queste cose. Ci voleva quel pizzico d'attenzione, però errori hanno fatti anche loro e non sono stati puniti, perché poi abbiamo creato 4-5 palle da gol nitide, però non siamo riusciti a metterla a posto sta partita. Penso che 4-5 giocatori, la prima volta che giocano il derby, un po' di tensione c'era e questo ti paralizza un po' le gambe, ma anche per altri che sono più navigati, essendo anche giovani, hanno un po' risentito, ma non c'era una spiegazione logica, perché stavamo giocando, secondo me, in una situazione a noi favorevole. Questo era Delia Rossi che commentava tra l'altro anche l'episodio chiave della partita, cioè il corner battuto frettolosamente dalla Roma secondo una formula collaudata lo scorso anno e adesso ripescata. Al di là del gol di Battista che è arrivato su assist di Totti, mi sembra che giocando con Totti Battista abbia subito dato l'impressione di essere un altro giocatore, e allora questo per l'ennesima volta a parer mio rivaluta l'importanza di un giocatore come Totti, su cui che tanto è mancato la Roma e che in parte continua a mancare, perché questo da un punto di vista con tutti i limiti, come dire, sanitari che in questo momento ha, non può essere il vero Totti, ma anche così riesce a essere determinante. Il commento alla partita di Bergamo, la sconfitta brutta che il Napoli ha subito a Bergamo, il commento di Rey. La partita stava filando, direi, diciamo, su binari normali, tranquilli, poi c'è stato l'episodio dell'espulsione di Zalagetta, l'arbitro era vicino, evidentemente ha ritenuto opportuno che questo è un fallo intenzionale, l'ha monito, era già monito e poi c'è stata l'espulsione, e da lì poi ci sono venute un po' di contestazioni, un po' di nervosismo. Non posso dire niente perché l'Atalanta sicuramente qualche cosa in più di noi l'ha fatto e penso che la vittoria sia legittima. Noi siamo partiti molto bene per una mezz'ora, abbiamo tenuto molto bene il campo e poi purtroppo la condizione di tutti non era sicuramente ottimale. Poi questo è un campo che purtroppo non c'è niente da fare, tutte le volte che veniamo qui non riusciamo a fare punti, o per un motivo o per l'altro ci sono sempre degli episodi che ci girano un po' contro. Anche il nostro rendimento che non è stato sicuramente dei migliori, eravamo un po' sottotono, più di qualcuno. Ecco, bravo Rey, ha rimediato alla fine, perché gli episodi che gli girano un po' contro al Napoli ieri semmai ha girato contro l'Atalanta. Il discorso poi è lungo, perché se l'arbitro non fosse andato completamente nel pallone, io non so quanti atalantini sarebbero rimasti in campo alla fine, visti gli atteggiamenti e i labiali diretti all'arbitro. Il fatto che potessero aver ragione, come si sa, non autorizza comportamenti e intimidazioni di quel genere, ma non c'è dubbio che gli episodi fossero girati semmai a vantaggio del Napoli, non certamente dell'Atalanta. Qualche numero: 26 punti su 30 quelli totalizzati dal Milan nelle ultime 10 giornate, quindi il Milan è campione d'autunno indubbiamente, poi d'inverno si vedrà. Il Chievo è arrivato alla quinta sconfitta consecutiva con quella di ieri a Milano, così come la Juventus è arrivata a 5 vittorie consecutive in campionato, a parte quelle in Coppa. Dopodiché c'è il record stagionale di rigori, 7. Il problema è che di questi 7, a essere molto, molto generosi, ce n'erano qualcosina meno della metà. 14-08, quasi 09. Sentirei anche un amaro Prandelli nel dopo partita di Cagliari. Il mio pensiero è questo, che dopo Palermo siamo stati un po' condizionati da molti episodi. Gilardino ha sbagliato, ha pagato e dovrebbe essere finita lì. E invece purtroppo ogni domenica ci sono degli episodi un po' contro. Però non mi va di parlare di queste situazioni, mi va a parlare della partita. La partita secondo me l'abbiamo fatta bene, su un campo molto molto difficile, con un Cagliari molto aggressivo. Si chiudevano bene, abbiamo cercato di mettere palla a terra, ma avevamo poco tempo per il fraseggio, perché un po' il campo, un po' la loro aggressività, e abbiamo trovato dei problemi. Nonostante questi problemi la squadra secondo me ha dato veramente tanto, abbiamo creato anche diverse opportunità e l'episodio ci ha condannato. Questa, vi dicevo, era l'amarezza di Prandelli. Completerei il quadro, abbiamo già ascoltato Lazio, Napoli, Fiorentina, diamo per acquisito il Genoa visto che la partita risale a 4 giorni fa, adesso l'Udinese. 5 squadre su 5 che rappresentavano, insieme a Catania per la verità, ma il Catania arrivava da un po' più lontano, rappresentavano le sorprese graditissime di un campionato, tutte sconfitte in questa giornata. Sentiamo ancora l'allenatore dell'Udinese, Marino. Purtroppo siamo mancati, perché questa per noi doveva essere una prova di maturità, perché quando si affrontano squadre importanti gli stimoli vengono da soli, l'attenzione e tutto il resto. Quando si incontrano squadre in difficoltà, diciamo così, devi affrontarle in maniera diversa. Oggi non c'è stato niente, non c'è niente da salvare in questa prestazione e abbiamo meritato ampiamente di perdere, quindi c'è poco da recriminare quando si gioca in questa maniera. Noi ogni tanto ci deve servire qualcosa del genere, perché così ci fa tornare normale, ci fa capire che quando non affrontiamo qualsiasi partita in una certa maniera diventiamo una squadra perforabile da qualsiasi squadra, da qualsiasi avversario. Ieri ho visto il derby, scrive Mario De Filippo, ho contato almeno 8 esplosioni fragorose nello stadio, un razzo partito ad altezza Duomo e tafferugli vari dentro e fuori. Mi chiedo per quale motivo le squadre di Roma debbano avere questo credito nei confronti della giustizia sportiva, senza parlare di ordine pubblico. Non finisce lì purtroppo il bilancio, caro Mario, perché le cose più gravi sono accadute fuori dallo stadio e sono accadute prima. È stata un'altra serata di scontri, chiusa, leggo dalla Gazzetta dello Sport, con un bilancio all'altezza di una serata di guerriglia in piena regola, 30 tra contusi e feriti, tutti tra le forze dell'ordine, e non sottovaluterei questo aspetto, e 10 arrestati, tutti tifosi laziali, frutto di scontri avvenuti prima della partita e nell'intervallo in tribuna a Tevere. Prima della partita, per l'appunto, questo assalto alla polizia era stato attuato da circa 200 teppisti armati di tubi, catene, bastoni, cacciaviti e un'accetta, composto in maggioranza da tifosi della Lazio con qualche presenza romanista. Insomma, un'alleanza magari maggioritaria e minoritaria per scagliarsi contro le forze dell'ordine. È evidente, almeno mi auguro, che i provvedimenti toccati in precedenza ad altre tifoserie toccheranno a questo punto senza dubbio, colpiranno a questo punto senza dubbio anche i tifosi della Lazio, e credo che sarà esteso, magari in misura minore, anche ai tifosi della Roma, proprio sulla base di questo pessimo bilancio del derby di ieri sera. Il primo intervento, Enzo dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, io Dica. Sono un tifoso viola. Sì. E una volta tanto vorrei soffermarmi sulla Fiorentina, ritenendo che questa squadra, secondo me, sta evidenziando parecchi limiti di personalità, direi, e oppure i giocatori sono schierati, ma io questo spero di no, con degli equivoci tattici in campo, un po' anche da Prandelli, perché arretra spesso Montolivo, che forse vorrebbe giocare più avanti, anche Vargas non sembra tagliato per quella posizione. Volevo sapere un suo parere, e poi volevo sottolineare un altro fatto non riguardante la Fiorentina, che ogni volta che gli allenatori delle squadre perdenti parlano della partita, tutte le cose negative, le cose positive per gli altri sono episodi. La ringrazio. Quella degli episodi è diventato un luogo comune assoluto. Poi, per la verità, a differenza di altri, ha un fondamento, perché spesso e volentieri sono nel bene e nel male gli episodi che orientano una partita. Faccio l'esempio di episodio che non ha niente di, come dire, di polemico. È un episodio, un lampo nel buio, il gol di Ibrahimovic a Palermo dopo 20 secondi della ripresa, che non c'entra assolutamente niente nel contesto della partita fino a quel punto. Quello però è un episodio che orienta la partita. Poi, anziché un episodio, può essere definito magia, e già la trovo più appropriata, insomma, mentre invece l'allenatore in genere, lei ha ragione, si rifugia nel concetto di episodio. Della Fiorentina non saprei in dettaglio, certamente 20 punti su 36 a disposizione sono abbastanza pochi per una squadra che si era rafforzata a quella maniera, considerando anche che per avere speranze di qualificarsi al secondo turno di Champions occorre a questo punto un mezzo o forse intero miracolo. Dalla provincia di Chieti, Alessandro, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Io sono, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Io sono tifoso della Juventus e non posso essere contento di come stanno andando le cose. Però dico la verità, ieri sera ho visto per la prima volta una partita intera della Lazio e nonostante ha perso, ha giocato veramente molto molto bene, con degli schemi ben definiti e quel tridente che veramente si ritrova in piena simbiosi. Volevo sapere da parte sua se in effetti può questa Lazio arrivare a qualificarsi in Champions League. E poi un'altra cosa, ho perso, diciamo, la polemica tra Variale e Zenga. Volevo sapere da lei cosa è successo, e comunque sia credo che siano a priori delle polemiche che non fanno bene al calcio giocato. Ma grazie, guardi, anche altri ascoltatori, Andrea per esempio, può raccontarmi la querela Variale Zengo? A Cesare era già in corso e non ho capito chi aveva ragione. Andrea, in due parole, noi abbiamo la registrazione intera, mi rifiuto di mandarla in onda perché perché si tratta, intanto perché dura tre minuti, poi perché è una questione di buon gusto e di rispetto. Chi ha cercato di fare da paciere ieri ha parlato di rispetto degli ascoltatori, dei telespettatori. Io rispetterei gli ascoltatori evitando questo. Se vuole le posso dire soltanto che stamattina hanno fatto pace, nel senso che si sono stretti la mano a Coverciano in occasione della consegna del premio Panchino d'Oro e del raduno della Nazionale Azzurra. Secondo me questo completa, dal mio punto di vista, questa pace istantanea completa la buffonata. Se proprio vuole che vada avanti, al massimo le posso dare i miei voti, che sono Zenga 2 e Variale meno 2. Torniamo in collegamento, ascolterei qualche altra voce di ieri, per esempio quella di Carlo Ancelotti, che anche se il Milan non sta attraversando uno dei suoi migliori momenti e certamente non ha giocato ieri la sua miglior partita, comunque è pur sempre secondo in classifica e potrebbe approfittare domenica del confronto diretto di sabato sera tra Inter e Juventus. Sentiamo Ancelotti. Penso che è stata la nota negativa della partita è stata proprio questa, insomma, che per quello che abbiamo creato, per come abbiamo giocato, credo che potevamo e dovevamo magari la partita non portarla sull'1-0 fino alla fine, però al di là di questo penso che la squadra ha giocato bene, ha fatto di tutto per creare opportunità, per vincere. Credo che abbiamo giocato un buon calcio con delle ottime trame e poi naturalmente un po' di sofferenza nel finale, anche se non grossi pericoli non abbiamo corsi, c'era perché insomma, domenica siamo stati raggiunti all'ultimo minuto e quindi un po' di apprensione nei minuti finali c'è stata. Sembra un po' approssimato per eccesso la valutazione di Ancelotti sulla partita di ieri del Milan contro il Chievo. Matteo in linea da Perugia, buongiorno. Buongiorno signor Gigi e grazie per lo spazio che mi concedete. Partendo dalla questione Variale Zenga, anche se ne ha parlato poco fa, e ricollegandomi un po' al servizio offerto dalla RAI quest'estate in occasione degli europei, che è stato definito scadente da molti, scadente ad essere gentile diciamo, io mi chiedo come mai a partire da De Luca in giù, ecco, tutti gli altri giornalisti, e compreso anche Variale, come mai non si riesce mai a sentire un commento tecnico-tattico? Mi chiedo, è una scelta editoriale oppure non ne capiscono molto di calcio? Perché se si parlasse un po' più di calcio invece che confronti Mourinho-Mancini oppure ecco, cose tipo quello che è successo ieri, forse anche chi segue ne capirebbe un po' più di calcio, perché probabilmente, penso, se in Italia ci riteniamo tutti allenatori che ne sappiamo poco, ecco, di calcio, altrimenti capiremmo che non è una cosa così semplice, forse saremmo anche più acculturati dal punto di vista calcistico. Invece se io sento Variale dire davanti a Ranieri è Del Piero in un meraviglioso momento di forma o altre cose del genere, ma questo insomma lo sa dire chi io. Grazie a lei Matteo, non mi metta eccessivamente in crisi perché non è mai simpatico mettere il naso in casa d'altri e tantomeno sdottorare in materia. Ciascuno fa la sua corsa e ogni botte può dare il vino, no? Dà il vino che può, a grandi linee. C'è D'Agostino tra i convocati di Lippi per Grecia-Italia di mercoledì sera. Questa è l'unica vera novità delle convocazioni, ma è una novità molto significativa perché al di là del fatto che ieri l'Udinese appunto ha avuto questo passaggio a vuoto contro la Regina, ma D'Agostino è un po' l'uomo nuovo del centrocampo di scuola italiana, insomma, di questa stagione. Non è una novità assoluta, ma è un giocatore che sta affermandosi a un livello più alto proprio quest'anno con un tipo di regia atipica, ricorda molto Liverani, che è tuttora in carriera per carità, ma che forse ha già vissuto il suo punto più alto della parabola. D'Agostino invece ci sta arrivando, è un giocatore di grande interesse e quindi trovo giusto che Lippi lo provi in questa amichevole. Angelo ha chiamato dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Sì. Buongiorno, guardi, l'ascoltatore precedente mi ha già soddisfatto della domanda che ha fatto, però se vuole posso dire anch'io la mia su Variale Zenga. signor Variale. No, non è indispensabile. Angelo, sì, cioè, sì, se abbiamo di meglio, possiamo sì, fare ecco, di meglio. Lo dico solo la mia. Il signor Variale, se l'altra volta, perché è per la volta precedente che il signor Variale si è incavolato perché Zenga parlava con un altro, non avevo, ecco. Ma penso che abbia il direttore di Rai Sport, no? Se lui ha qualcosa da fare, faccia il rapporto al suo direttore di Sport, non faccia tutte quelle polemiche lì, che crede di essere un principino, non lo so io. Non lo so nemmeno io, Angelo. Io so che Pietro Lo Monaco, l'amministratore delegato, lì è dura, sa, è dura, perché quando ci sono i galletti, no, che sono convinti di avere la cresta chissà dove, fargliela abbassare durissima. Comunque, in generale questo. Leggo da un'agenzia che Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, dice Walter Zenga sarà multato perché il suo comportamento non fa bene né a lui né alla società. Quello di ieri, ha detto Lo Monaco, è stato un episodio deprecabile che non rende onore a nessuno dei due, una polemica priva di attinenza con la domenica calcistica e il commento alle partite. Mi dispiace che Zenga si sia lasciato andare a quel modo e posso parlare solo per lui. Sarà multato perché il suo comportamento è giustificabile solo con un'inesperienza. A Catania sta lavorando bene con grandi miglioramenti, ma non deve cadere in certi giochetti di prestigio. Noi da tempo ci sforziamo di avere un'altra immagine. Ha capito che questo l'ha detto Lo Monaco, quello che a Mourinho non più tardi 2 mesi fa voleva mettere il cemento in bocca, non mi ricordo se il cemento in bocca o le bastonate sui denti. Questo è quello che sta richiamando all'ordine Zenga per intemperanze verbali o per mi faccia leggere di nuovo, caduta di stile, no? Questo, ecco, quindi questi sono i pulpiti, questi sono i maestri. È come la settimana scorsa quando Mattarrese si rivolge ai presidenti e dice: ma insomma, dicano loro agli allenatori, dicano i miei presidenti, spieghino loro agli allenatori che devono rispettare innanzitutto l'educazione. E naturalmente poche ore prima Zamparini aveva dato dei maiali ai giornalisti. Gino in linea da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Senta, io sono un simpatizzante dell'Inter, sì. però non capisco molto più quello che sta succedendo. Mi sembra di essere tornato quando 30 anni fa ho fatto il militare, cioè nella 16, tu cosa fai della vita? Il falegname? Beh, allora vai a lavorare nelle cucine. Cioè, come si fa a mettere Cambiasso, che ha spirito offensivo, dietro? Come si fa a volere pretendere di giocare sulle fasce? Forse il signor Mourinho non ha capito che qua poi si raddoppia, che non c'è nessuno che possa fare, diciamo, che possa andare avanti soltanto con uno. Cioè, mi sembra di rivedere l'Inghilterra di 30 anni fa, no? E sulle fasce, cross al centro, sperando poi che qualcuno di testa butti dentro. Il centrocampo è più schiacciato sulla difesa. Cioè, ancora non capisco. Cioè, non capisco più niente in che senso voglia poter portare avanti una squadra dove ci sono 25-26 campioni tutti portati all'offensivismo e li sta schiacciando tutti quanti dietro, lo stesso Stankovic per non parlare di Cambiasso. Cioè, non lo so, ecco, sono abbastanza confuso. Mi sembra abbastanza chiaro il suo intervento. Lei ha parlato di 25 campioni, le faccio rispondere a Camoranesi, ma non è la mia risposta, è quella di Camoranesi, che ha appena detto: Ibrahimovic è il giocatore più determinante che ci sia oggi in Italia, più o meno come concetto. Per il resto, nella squadra nerazzurra alcuni giocatori sono bravi, altri fanno numero. Ecco, questa è l'opinione di Camoranesi, che mi sembra leggermente diversa dalla sua. Ora, Camoranesi è uno che ha la linguaccia in un buon posto. Il discorso era riferito, il discorso che stava facendo era riferito al fatto che la Juventus ha fatto a meno di molti titolari in questo periodo e ha vinto ugualmente 7 partite di fila. Io credo, al di là di quello che dice Camoranesi e che pensa lei, a me sembra che ci sia stata una significativa marcia indietro, credo, di Mourinho l'altra sera a Palermo, nel senso che sono sparite le ali, quindi sono semmai tornati ad avanzare i difensori esterni. La squadra è stata rischierata con un 4-4-2 che ricordava molto quella di Mancini, ed è esattamente come quella di Mancini. Le cose migliori, cioè non le cose migliori, le cose le ha fatte Ibrahimovic. Un altro ascoltatore, Giulio Torelli, che è un corrispondente abbastanza abituale di questo programma, dice che tecnicamente l'Inter, se parliamo di calcio, è una squadra che l'anno scorso dipendeva da Ibra al 50% con Mancini, ora tra il 70% e l'80%. Non so poi quanto queste percentuali siano condivisibili, ma il concetto grosso modo è quello. Più che di polemiche, egregio Garanzini, scrive Lucio da Vigevano, parlare del gesto atletico di Ibrahimovic o meglio ancora del passaggio in porta di Cassano. Beh, parliamone. Allora, intanto non è un gesto atletico quello di Ibrahimovic, è un gesto tecnico, ma vabbè, questa è un'osservazione bonaria, intendiamoci, perché di atletico sì, certo, la potenza del tiro, ma è la tecnica è intanto l'istinto di colpire da quella posizione, da quell'angolazione, di farselo venire in mente in una frazione di secondo, perché ancora quando lui si porta avanti il pallone con la suola non sta pensando di tirare in porta. Poi, visto che da Balzaretti in giù questi del Palermo stanno palesemente ronfando e sono ancora in sindrome post-prandiale dall'intervallo, il famoso tè caldo probabilmente di Caressa, allora, visto che nessuno gli va sotto, come si dice in gergo, ci prova e ci riesce in quel modo magnifico. Quello di Cassano, lei dice benissimo, è un passaggio in porta. Il passaggio in porta è un colpo che è nel repertorio soltanto dei campioni, di quelli che hanno una tecnica superiore, perché si vede benissimo che Cassano non tira, la passa, cioè misura il portiere fuori porta, quindi basta appunto passare il pallone in porta, possibilmente alte, possibilmente alle parti dell'incrocio, in effetti va quasi a togliere la ragnatela dal 7. Parliamo di queste cose, dipende da voi sapete che il lunedì siete liberi di intervenire, siete liberi praticamente tutti i giorni, ma il lunedì in particolare, e se scegliete argomenti come questi, ben volentieri. Stefano da Grosseto, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini, grazie ovviamente per l'intervento. Io volevo proseguire sul filone di oggi, l'argomentazione principale, ovvero Walter Zenga. Il filone sarà vostro, basta che non sia mio. Ecco, io ho già fatto l'impossibile per dire no, che se ne poteva fare a meno. Dica. Certo, no, mi fossilizzerei tanto proprio sul rapporto variale Zenga, ma io parlerei più in generale del comportamento di questo ex portiere dell'Inter e della Sampdoria, che da quando fa l'allenatore in Italia non mi sembra che stia dando un esempio di grande civiltà, soprattutto perché usa sempre toni piuttosto aggressivi, piuttosto presuntuosi. Poi ovviamente verrà anche, come si dice qui da noi in Toscana, stuzzicato, però certamente io penso che uno dei segreti dell'allenatore, oppure di una persona che è così tanto presente davanti alle telecamere, sia anche quello poi in un certo senso di resistere a certe provocazioni. Forse lo Monaco, io non voglio giudicare queste occasioni, però penso che lo Monaco forse abbia fatto anche bene, anche per ragioni societarie, a multarlo. Che abbia fatto bene a richiamarlo all'ordine non c'è dubbio, il problema è sempre il pulpito però. Certamente, quello è vero. Poi un'altra cosa velocissima, questa sera il Grosseto gioca in Serie B a Empoli per il primato, quindi anche un bocca al lupo alla squadra della mia città. La ringrazio. Grazie a lei Stefano. Andiamo a Catania da Renato, buongiorno. Ciao Gigi, sono Renato, sono da Catania. Buongiorno Renato. Buongiorno. Io credo che comunque, anche se il pulpito di Monaco è fatto lascio il tempo che trova, perché c'è qualche precedente di lingua non perfettamente collegata al cervello, l'ha mostrato. Però credo che, insomma, alla fine un ravvedimento, almeno in questi casi, cioè è anche giusto considerarlo, ecco. Poi sono d'accordo con lei per i voti 2-0 e meno 2 variale. Variale anche con tutto Brienza, con Mascato, voleva neanche, tecnicamente non voleva neanche entrare nella partita, perché non sapeva neanche chi era il giocatore del Catania che aveva fatto la tripletta. Ma no, era evidentemente, no, non è che non lo sapeva, era evidentemente alterato. Però guardi che se è vero, come la maggioranza di voi dice e scrive, che questi personaggi in realtà, come ormai quasi tutti nel mondo del calcio, quelli che trovano il modo di, appunto, questi modi di mettersi in evidenza, in realtà stiamo facendo il loro gioco, sicché se magari parlassimo d'altro. Siamo a Catania, parliamo della punizione Parliamo della punizione di ieri di Mascara, perché in molti hanno parlato di questa, chiamiamola novità, che poi novità assoluta non è, ma di questo schema che prevede che 3-4 giocatori vadano a posizionare della squadra che batte la punizione. Così torniamo un po' anche alla tecnica, alla tattica e agli sviluppi che il calcio poi, pur essendo così antico, offre di tanto in tanto. 3 giocatori vanno a mettersi oltre la barriera, 3 del Catania ieri, visto che era Mascara che stava per calciare, e disturbano evidentemente la visuale del portiere avversario. Fin qua tutto bene, poi si è scoperto da riprese televisive che in realtà uno di questi, pare almeno uno, che si chiama Plasmati, si abbassi anche i pantaloncini per distrarre il portiere. Allora è evidente che, non, come ormai sostengo da anni, non siamo lontanissimi dalle comiche finali anche del calcio, no? Questa casistica è stata sottoposta stamane a Collina, che era presente anche lui a Coverciano. L'agenzia dice: sinceramente Pierluigi Collina ha ammesso che quei pantaloncini abbassati da Plasmati per disturbare il portiere del Torino sono una novità spiazzante. Vorrà dire che ora guarderemo anche i pantaloncini bassi in area. Ora era evidente che Collina era, come dire, un po' spiazzato, un po' ironico su questo, però è anche vero che poi gli è toccato chiarire che il regolamento non contempla casi del genere come condotta antisportiva, ma semplicemente perché quando si sono stilate le norme non si prevedeva un'eventualità così, cioè non si pensava che un giorno si sarebbe mai arrivati che uno si abbassava i calzoni per distrarre il portiere, perché in effetti si parlava ancora di calcio e non ancora di manicomi. In sostanza, se è considerato antisportivo abbassarsi i pantaloni per offendere il pubblico o provocare un avversario, la distrazione del portiere non era prevista, ha ribadito Collina. Va da sé, ha aggiunto, che è facile valutare se sia o meno anche quello un atteggiamento antisportivo. È una considerazione che potete fare senza problemi. Tradotto dall'arbitrese, è evidentemente un atteggiamento antisportivo. Collina ha invece valutato regolare la posizione dei giocatori della seconda barriera sulla punizione di Mascara, un trucco che usano diverse squadre. Al momento della battuta i giocatori del Catania non erano più in fuorigioco, che è verissimo. Anche perché poi tutto questo cinema, che come è noto oggi è come nei piatti, no? dove è più importante il contorno e non si guarda più alla sostanza vera del piatto, tutto questo toglie merito a Mascara, che ha battuto una delle più belle punizioni della stagione, una delle migliori in assoluto, perché ha esattamente sorvolato la barriera con la traiettoria e l'ha messa a scendere pochi centimetri prima della linea, con la traiettoria tagliata e forte oltretutto. Secondo me è una grande prodezza di Mascara. Vado avanti con Collina, anche se evidentemente queste notizie poi rendono abbastanza non grottesco forse tutto quello che si sta dicendo, tanto più se si parla di queste casistiche. Il gesto dei giocatori del Catania sulla punizione di Mascara contro il Torino non è davvero previsto da casistica e codici, ma è sicuramente antisportivo. Così Collina, al telefono con l'ANSA, ha bocciato la furbata della squadra siciliana sui calci da fermo. Per trovare un'analogia arrivato col pensiero, prosegue Collina, a quando le maschere erano vietate. Poi un giocatore latinoamericano si presentò in campo con il volto dell'uomo ragno, la FIFA non la prese bene e provvide regolamentando la questione. Detto questo, stando alle norme attuali, gli arbitri che hanno diretto le gare del Catania si sono comportati bene, perché sapevano della trovata, hanno seguito con attenzione l'azione e effettivamente i giocatori etnei non erano in fuorigioco. Non ho capito, sinceramente, non ho capito bene, perché mi sembra che Collina stia dando un colpo al cerchio e uno alla botte, ma è più probabile invece che abbia parlato in situazioni diverse e che questi resoconti siano inevitabilmente un po' frammentari, visto che avvengono più o meno in tempo reale. Antonio ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Granzini, l'ascolto sempre ben volentieri. Grazie. Premetto che faccio pensiero ai familiari delle vittime di quello che è successo poco fa. Poi avrei due quesiti, se è possibile, per lei. Sì. Ecco, il primo è l'atteggiamento di Doni e dei giocatori di entrambe le squadre ieri a Bergamo, visto che si parla di un pubblico sempre sottoposto che poi è il pubblico che ci ritroviamo e che ci impedisce di portare i bambini allo stadio. Ma con quell'atteggiamento e gli insulti che ha rivolto all'arbitro, e lì spero che la prova televisiva si faccia viva, è a dir poco, poco edificante e molto poco educativo per tutti, oltre che per quelli dello stadio, per chi guarda la TV. Uno. Poi sulla Juventus, trasferendosi in alta sponda, anche per i gesti tecnici di Del Piero, che non è da meno. Anzi, lui ci ha abituato, diciamo, a quel tipo di gesti tecnici in questi ultimi periodi. Ecco, vorrei dirle, questa Juventus che sta praticamente sfruttando al massimo questi ragazzi di 30 anni e oltre, che guidano bene sia in Champions che in campionato, quanto dureranno? Tenendo conto che la Juventus... Antonio, sì, ho capito, un intervento è già un po' lungo. Tenendo conto, lei stava dicendo che la Juventus è partita un mese prima, eccetera, ma questo credo che sia la grande incognita sul futuro della Juventus: o saprà sfruttare al meglio la sosta invernale, oppure la Juventus, così a occhio, anche per come e quanto sta correndo, l'impressione che sia poi destinata un pochino, comunque a calare, da un pochino a un po' tanto a calare nella fase primaverile. Molto dipenderà da come riuscirà a sfruttare la sosta. Quanto a Doni e agli Atalantini, credo che sia lì la misura della mancanza di personalità dell'arbitro, perché l'arbitro ha commesso degli errori tecnici ieri, ma gli errori tecnici, anche se gravi, perché ha sbagliato gravemente nelle due aree di rigore e anche psicologicamente, direi, nel secondo caso, più psicologicamente che tecnicamente nel secondo caso, perché secondo me c'è anche un po' di teatralizzazione di caduta da parte dell'Atalantino, ma in ogni caso il rigore si dà a quel punto. Bene, però se non li hai dati perché tecnicamente hai valutato così, dopo dal punto di vista disciplinare non puoi farti trattare a quella maniera. L'Atalanta doveva finire in 8 in 9 a essere abbondanti, quindi questa è una bocciatura grave per un arbitro. Arrivano molti sms anche oggi, come in ogni giorno e come in particolare accade il lunedì. Due sono molto carini, in particolare questo. Il primo: dagli interventi di oggi si può capire bene perché in Italia i reality show e tutto il resto vadano tanto di moda. Lo firma Jacopo da Vicenza e mi sembra una chiosa perfetta. Il successivo, dopo l'appuntamento con il ripasso storico sportivo di Nicola Filippone. Sembra ieri. 17 novembre 1976. A Roma, l'Italia di Bernardini e Berzot ottiene un'importante vittoria nel girone di qualificazione ai mondiali di Argentina. Davanti agli 80.000 spettatori dell'Olimpico, si impone con un netto 2-0 sulla temibile Inghilterra, in cui brilla la stella di Kevin Keegan. Al 36esimo del primo tempo sblocca il risultato Antognoni su punizione. Al 32esimo della ripresa è Bettega a firmare il raddoppio, con un memorabile colpo di testa in tuffo su cross di Benetti. Italia e Inghilterra chiuderanno il girone in testa a pari punti, ma gli azzurri otterranno l'unico posto disponibile per la fase finale grazie alla migliore differenza reti. E poi venne quel popò di mondiale argentina che sarebbe poi stato seguito da quello di Spagna. Francesco Barbieri di Verona dice: lei, parlando di Ibrahimovic, ha detto letteralmente nessuno gli è andato sotto. Finalmente risento parlare di calcio in modo corretto. Guardi, Francesco, io la ringrazio del pensiero, poi correttissimo forse no, perché andargli sotto non credo che sia da Accademia della Crusca, però almeno rende l'idea, insomma. Capisco cosa vuol dire, nessuno attacca gli spazi, nessuno aggredisce, eccetera, eccetera. Semplicemente si gioca a calcio e si va sotto ogni tanto a uno che da 25 metri, 30 metri in su può far male, e infatti ha dimostrato di poterlo fare. Da Firenze ha chiamato Daniele, buongiorno. Buongiorno. Dica. La ringrazio per avermi richiamato, complimenti per la trasmissione. Io tra l'altro sono un appassionato di calcio, pur non essendo tifoso particolare di qualche squadra, le mie simpatie, ma il mio intervento è interessato perché ho una moglie tifosissima del Napoli e quindi mi serve per guadagnare punti familiari. Al di là della battuta, mi riaggancio a quello che ha detto l'ascoltatore di prima da Bergamo, che ha trovato poco educativo l'atteggiamento di arbitro e giocatori, e sono perfettamente d'accordo. Mi dispiace che non abbia aggiunto che è sicuramente altrettanto poco educativo quello che succede sugli spalti, in particolare di alcune città del nord Italia, dove si inveisce in maniera assolutamente razzistica nei confronti delle squadre del sud. Ieri io in diretta su Sky ho avuto modo di sentire che Napoli pare che non sia in Italia, ma in un altro continente. Questo è sicuramente poco educativo, altrettanto come quello che succede in campo e che abbiamo visto ieri. Sono quasi sempre d'accordo con lei, dottore. Ripeto, non amo il calcio parlato, ma la sua trasmissione la seguo tutte le volte che posso e la trovo veramente molto interessante. Però stavolta non sono d'accordo, perché secondo me quello che voi chiamate errore, quello che tutti gli organi di stampa o la maggior parte chiamano errore da parte dell'arbitro, mi riferisco al fallo l'intervento sulla Vezzi, a mio modo di vedere era rigore, semplicemente perché il regolamento del gioco del calcio parla di interventi violenti, e quello, mentre la Vezzi ha il pallone tra i piedi che sta giocando, pur essendo stato toccato il pallone, il giocatore viene travolto da un intervento violento. Il tag è scivolato, è assolutamente consentito, e si può anche travolgere il portatore di palla, ma quando sicuramente non hai il pallone tra i piedi come la Vezzi aveva ieri. Aveva fino a un certo punto. L'arbitro non è stato lucido sicuramente, non è stato lucido in molte altre occasioni, ma ha fatto molti altri errori, ma quello, a mio modo di vedere, non era calcio di rigore, ecco, tutto qua. A suo modo di vedere, Daniele, anche a modo di vedere di Giancarlo, che scrive da Milano, il rigore dato al Napoli era nettissimo. Beh, insomma, ci vuole un discreto fegato, secondo me, a definirlo nettissimo. L'arbitro ha sbagliato dopo a non espellere Doni. E va bene, cioè, come sempre le cose si possono vedere da tante angolazioni. Io, per esempio, a proposito di angolazioni, mi domando cosa sarebbe successo se ieri, dopo 15 minuti di Milan-Chievo, fosse stato dato al Chievo un rigore come quello invece regalato al Milan, che mi risulta essere su 4 nelle ultime 4 partite casalinghe del Milan almeno il terzo consecutivo regalato. Quindi, come sempre, va opinioni, va ad angolazioni, a punti di visuale. Rolando da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, buonasera dottor Garanzini, intanto buongiorno. Complimenti per la sua professionalità, avevo il piacere di avere un suo giudizio su un mio ragionamento logico. Allora, ho sentito che il Real Madrid sta per andare su, diciamo, Mancini come allenatore. Sì. Allora, secondo lei, oltre a Mancini, chi oggi in Italia poteva allenare l'Inter? Cioè, se un allenatore italiano viene seguito da Real Madrid con 25 persone come quelle che c'ha l'Inter, 25 campioni, chi secondo lei poteva allenare l'Inter? E se secondo lei forse sono stati i soldi meglio spesi dal presidente Moratti finora? Perché chiaramente se uno crea una squadra di quel tipo deve avere comunque un allenatore all'altezza di quei giocatori, insomma. Volevo sapere lei che ne pensava. Non ho capito molto bene, cioè, questo è un elogio di Mancini? Io sono è un elogio di Mancini o un elogio di Mourinho? Non ho capito davvero. No, è un elogio di Mourinho, perché di Mourinho. Diciamo che oltre a Mourinho in Italia, secondo lei quale potrebbe essere l'allenatore che con quei giocatori? Ah, ho capito. Una squadra con 25 giocatori come quelli dell'Inter. Con quei giocatori, il mio portinaio, l'ho già detto alcune volte, no, cioè non soltanto i tecnici in giro. Io credo il mio portinaio, purché ovviamente sappia usare buon senso e far convivere tra loro gli assi, oppure il compianto, per tornare invece a un esempio interista, il compianto Gianni Invernizzi del 1970-71, quando gestì una formidabile rimonta dell'Inter, praticamente delegando una parte delle sue prerogative, ma saggiamente, intendiamoci, a Corso, a Boninsegna, a Facchetti e Mazzola, ai giocatori leader. Io credo che non sia una grande impresa quella quella che compiono questi grandi allenatori, avendo giocatori di quella forza così superiore agli altri, ma vale anche per Mancini nelle ultime stagioni, così come valeva per Sacchi ai tempi del grande Milan. Poi si può discutere sull'estetica, ma dato che in Italia l'estetica poi non se la ricorda nessuno, si ricordano solo gli albidoro, io credo che non sia un'impresa proibitiva quella di guidare vittoriosamente l'Inter di questi anni, oltretutto nelle ultime stagioni anche senza avversari. Rosario da Napoli, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno a lei, Rosario. Come va? Io rimpiango sempre quelle sue splendide trasmissioni. Fantastico, ma dato che questo non è oggetto di lei, rimpianga serenamente, io no, la ringrazio della sua memoria. Poi? Poi, le volevo dire una cosa, secondo me è una tattica che ora usano gli arbitri, perché se Rocchi due o tre settimane fa ha fatto tutti quegli errori in Roma, in Napoli-Milan, e come premio ha avuto il derby, io credo che Brighi ha fatto lo stesso ragionamento, ha detto: io se arbitro così mi fanno fare la Champions League, secondo me, la finale di Champions League. Io penso che... Lei è ironico oppure sta dicendo la verità? Sono molto ironico, chiaramente. Molto ironico. Sì, altrimenti sì. Non mi piacerebbero le sue trasmissioni, credo. Meno male. Meno male, Rosario, perché ci tenevo a finire. Insomma, dato che l'ultima telefonata di giornata statisticamente è sempre quella più a rischio, non so perché, ma statisticamente è così, mi sarebbe dispiaciuto sentire da un accento napoletano una cosa così. Così di cattivo gusto, mentre invece messa come la messa, ironicamente, allora possiamo anche prendere per buona, anche se insomma non è che ci mancassero, no? Oggi come sempre in genere polemiche. Grazie a lei, grazie a Peter Bescapè in regia, Fabio Suardi in redazione, appuntamento a domani, e adesso speriamo in notizie non più drammatiche di quelle precedenti da parte del giornale radio.